dell'altra Europa. È la voce in diretta di Samantha Cristoforetti, quella che state ascoltando. Benvenuti all'Altra Europa. Oggi puntata speciale dal Parlamento Europeo di Strasburgo, con me tantissime giovani, tantissime ragazze, tantissimi ragazzi che stanno partecipando a HAI 2016. Fatevi sentire che ci siete per davvero, fate un applauso. Eccoli qua. Puntata speciale, sono una piccola rappresentanza degli oltre 7.000 giovani che stanno animando Strasburgo in queste ore. Oggi sentiremo un po' delle loro voci e sentiremo anche le voci di alcuni dei relatori che si stanno alternando in questo importante appuntamento. Vi presento subito alcuni dei partecipanti. Ciao Samantha, ciao Aurel, ciao Andrea, Nicola e Valentina, che è una delle relatrici. Io vi sento, sì, perfetto. Samantha, chi siete? Allora, noi siamo una comitiva di ragazzi universitari, veniamo dall'Università di Torino e studiamo tutti scienze internazionali alla triennale. E abbiamo deciso già dalla fine del 2015 di partecipare a questo evento come gruppo accompagnato con alcune associazioni. Perché si può essere qui in quanto parte di un'associazione, studenti, esatto. Gruppo informale? Sì, si può anche arrivare come gruppo informale, l'importante è essere almeno 10 partecipanti. Noi eravamo addirittura in 17, talmente eravamo entusiasti di questa esperienza e quindi siamo riusciti a venire anche senza appoggiarci ad alcuna associazione. Aurel, perché la scelta di essere qua? La scelta di essere qua è una scelta dettata soprattutto da ideali che noi abbiamo sia a livello politico, in quanto volevamo scoprire e vedere dal vivo le istituzioni europee e partecipare soprattutto a diverse attività legate all'ambito politico piuttosto che all'ambito economico. Infatti tanti di noi hanno scelto di partecipare a diverse attività seguendo le proprie aspirazioni personali, quindi abbiamo persone che hanno scelto di seguire attività più legate al mondo della finanza e del business e altri che hanno invece seguito attività più legate al mondo della politica in generale. Adesso andiamo a scoprire anche un po' i primi eventi a cui avete partecipato insieme anche alle feste, ci sono anche le feste? Siete già stati alle feste? Più o meno. Non si può dire, questa era una sbagliata domanda. Andrea, ciao. Buongiorno. Buongiorno, tu sei di Ferrara, però fai parte di un'associazione bolognese. Sì, io faccio parte di un'associazione bolognese che si chiama Next Top Europe. Siamo un gruppo piuttosto eterogeneo, perché non veniamo solo dall'Italia o dall'Emilia Romagna in particolare. C'è una ragazza azera con noi, ragazzi turchi, rumeni. Siamo un gruppo multiculturale che ha deciso di partecipare a questo evento perché crediamo molto nell'importanza di incontrare giovani come noi provenienti da tutta Europa che ci stimolino e che ci permettano di tornare a casa con un bagaglio che è decisamente più grande rispetto a quello che potremmo avere in altri eventi. Tu sei studente? Io sono già laureato, però continuo a essere studente perché sto studiando economia. Parliamo di cose serie, perché hai una cabina telefonica in cortile? Che prima della puntata appunto girava questa fotografia, non c'entra niente con l'Europa, però mi sembra che sia significativo delle persone che sta ridendo il tuo collega Nicola. Come mai una cabina telefonica? Perché credo che tutti noi dobbiamo partire dalle emozioni e oggi stanno smantellando le cabine che sono per le strade d'Italia e quindi ho deciso di avere una cabina telefonica ed è stato un lungo processo, ci ho messo parecchio tempo, quasi 5 anni, sì. Perché credo che fra poco non ce ne saranno più e io potrò quasi vantarmi di avere questa e poi chi lo sa nell'attività professionale futura, non si sa mai, avere un pezzo che possa generare emozioni nel pubblico che diciamo si presenterà nella mia attività. Rifondazione telefonica qui ad HAI 2016. Una grande idea. Nicola sta sorridendo perché insomma sì. c'è della sana follia. Esattamente. Tu Nicola hai già partecipato a qualche incontro? No, sì, ho già partecipato a 2 incontri ieri e uno oggi per quanto riguarda l'imprenditoria. Ha usato una parola prima, Nicola, che è emozione, che apparirebbe come la cosa assolutamente più lontana dall'Europa. C'è qualche concetto europeo che invece ti emoziona? Ma sostanzialmente volevo dire che già questo evento mi emoziona tantissimo, cioè stare qui con ragazzi di tutta Europa e scambiare pareri, culture, opinioni diverse è già di per sé fantastico. È emozionante conoscere nuove persone e potersi relazionare in altre lingue. Io conosco solo l'inglese, però anche parlando diverse lingue riusciamo comunque a capirci tra di noi e a socializzare. Questo è fantastico, quindi per me è una grande opportunità essere qui ed è fantastico poter condividere le proprie opinioni e avere anche opinioni diverse. Anche questo è molto importante, perché io penso che per crescere è necessario avere opinioni diverse, perché se tutti quanti abbiamo le stesse opinioni non andremo avanti. Invece, avendo opinioni diverse, possiamo confrontarci e contaminarci. Questo è molto importante. Valentina, credo che già hanno detto tutto, cioè è questa l'educazione informale, è questa l'educazione che tu porti avanti con la tua associazione. Valentina Pomat, una delle relatrici qui ad AI 2016, chi rappresenti? Rappresento European Educational Exchanges, Youth for Understanding, siamo un'organizzazione europea e rappresentiamo appunto a livello europeo, soprattutto con le istituzioni, in relazione alle istituzioni, 30 associazioni nazionali che si chiamano Youth for Understanding e sono ovunque, ce n'è anche una fondata di recente in Italia, e ci occupiamo di scambi giovanili di lunga durata, quindi quello che viene in genere conosciuto come l'anno all'estero durante le scuole superiori. Al di là di questo ci sono un sacco di attività parallele che facciamo, che sono appunto relative all'educazione non formale, tutta quell'educazione, quell'apprendimento che si svolge al di fuori del contesto scolastico e quindi viene svolto dalle organizzazioni giovanili, in questo caso in particolare, di cui i miei colleghi qua presenti sono rappresentanti anche. Voi di fatto, Samantha, siete già uscite dalle scuole dell'obbligo, no? Cioè che siete universitari. Sì. E cosa spinge a continuare questo racconto, questo incontro, questa conoscenza, questa divulgazione anche dell'Europa? Beh, per quanto riguarda noi abbiamo scelto comunque scienze internazionali e dello sviluppo e della cooperazione. È una parte comunque del nostro percorso universitario estremamente importante. Non è solo una pura relazione internazionale, è veramente una volontà e una speranza probabilmente che noi ci portiamo avanti, quella di poter cambiare. Lo slogan stesso di questo evento, dello European Youth Event, è Together we can make a change. Insieme possiamo farlo il cambiamento. E personalmente penso che anche il mio compagno Aurel potrà essere d'accordo. Il fatto di essere molto giovani, il fatto di vedere delle situazioni anche instabili, fragili, che l'attualità ci propone, non sono un deterrente, sono al contrario una spinta per provare veramente, studiando, andando avanti, imparando da quello che succede adesso, a costruire qualcosa di nuovo e magari di migliore al futuro. Aurel, prima però ti stavi lamentando tu di un incontro a cui hai partecipato ieri. Sì, ci stavamo lamentando sia io che Samantha per un incontro a cui abbiamo partecipato che aveva come argomento l'evasione fiscale, e ci ha preoccupato seriamente il fatto che la stragrande maggioranza dei relatori presenti difendesse fermamente questo argomento. Ad esempio c'era un signore tedesco molto noto, che ha scritto anche diverse opere e le ha pubblicate, il quale sosteneva che le tasse non devono essere pagate, e se devono essere pagate, perché? E continuava a dire che secondo lui la logica del pagare le tasse non aveva nessun senso, e ciò ci ha sorpreso veramente tanto, a tal punto che ce ne siamo andati subito. Ah, proprio una protesta. Sì. Insomma, e questo è anche farsi sentire, no? Se insieme si può fare la differenza, bisogna anche bisogna metterci la faccia. Ci fermiamo, le informazioni per chi sta viaggiando, poi torniamo qui in diretta dal Parlamento Europeo di Strasburgo con AI 2016. L'altra Europa. You have to spend a lot of time underwater. So that's me and Terry at NASA in Houston. There's this gigantic pool, it's enormous, really amazing, and it's very deep. It's about 30 È una delle sei relatrici in questo momento, centinaia di giovani la stanno ascoltando, Samantha Cristoforetti, che sarà con noi poi nel corso della puntata, o meglio, l'abbiamo intervistata un paio di giorni fa, proprio perché sapevamo che eravamo in concomitanza, era una delle ospiti più attese qui ad AI 2016. Abbiamo fatto un cambio volante al tavolo, nuovi ospiti. Do il benvenuto a Roberto Kocsáncsics, presidente della Conferenza Internazionale Cattolica dello Scautismo e anche senatore, giusto? Ma sì, anche questa cosa. Nessuno è perfetto. Poi Laura Odasso, ricercatrice della Libera Università di Bruxelles. Ciao Laura. Ciao. L'ho pronunciato bene il cognome, vero? Sì. Ok, perché prima avevamo fatto degli errori. Poi altri giovani ospiti invece direttamente da Parma. Do il benvenuto a Gordon, Giorgio ed Edoardo. Ciao Gordon, chi siete? So che sei un po' rappresentante di questo gruppo. Sì, siamo un gruppo di studenti universitari dell'Università di Parma, siamo del corso di Scienze Politiche e abbiamo deciso di intraprendere questa avventura e venire qui e metterci in gioco. Come inizia un'avventura del genere? So che tu sei stato un po' quello che ha calamitato gli altri partecipanti. Come hai avuto notizia intanto che c'era questo evento? Direttamente su internet, sul sito del Parlamento Europeo, poi ho proposto la cosa ai miei colleghi, tutti entusiasti, abbiamo deciso di partecipare. Uh-huh. E vi siete preparati in un qualche modo? Sì, abbiamo contattato i nostri professori, il nostro consiglio di corso, abbiamo fatto un corso preparatorio sulle istituzioni europee e niente. E siete qua, ok, poi andremo a scoprire a cosa avete partecipato già in queste ore. E Laura, tu invece cosa farai? Sei qui? Sì, qui. O cosa hai già fatto? Perché col programma mi sono un po' perso. Ma io ho partecipato a un incontro che penso fosse volto in particolare a chi finisce l'università, master o dottorati, per cercare di spiegare alcuni tipi di finanziamenti europei per poter, grazie a dei fondi, portare avanti dei progetti di ricerca e accedere alla mobilità europea, quindi studiare in un altro stato e in parallelo, fuori, non all'interno del Parlamento, ci sono delle tende della Commissione Europea dove i giovani possono passare e ascoltare diversi ricercatori che parlano, presentano non tanto il loro tema di ricerca, se vogliamo, o almeno questo solo in parte, ma piuttosto il loro percorso, come hanno fatto a scegliere di fare della ricerca, e alcuni face to face meeting, gente che chiede di incontrarti e chiacchierare con te. Tu ti occupi di etnie, razzismo, migrazioni ed esclusioni? No. Cos'è l'Europa di ieri, l'Europa di oggi e l'Europa di domani, quella che stai disegnando tu con la tua attività di ricerca? Sì, un po', forse. No, mi occupo di matrimoni binazionali e di politiche migratorie, di come le politiche migratorie hanno un impatto importante e come talvolta non ci rendiamo conto, ma possono avere un impatto negativo addirittura sui cittadini nazionali europei, e cerco di capire cosa fanno le associazioni, che sono questa nebulosa che esiste tra lo Stato e i cittadini o i migranti, e quindi sì, diciamo, spero di migliorare l'Europa di domani. Edoardo, cosa ti ha spinto ad essere qua? Beh, allora, prima di tutto la voglia di essere informato, la voglia di scoprire qualcosa di nuovo, in quanto questa esperienza è tutta nuova per me, per noi, per tutti noi di questo corso, per migliorarmi, per migliorare le mie conoscenze, poi per fare un'esperienza appunto del tutto originale e praticamente irripetibile, in quanto una volta all'anno, e comunque è un evento che entrare al Parlamento Europeo è una cosa impensabile praticamente per uno della nostra età all'università. E spesso si dice l'Europa, il palazzo, come lo si immagina, una cosa algida, una cosa distante. È così? Cioè, adesso che ci sei dentro, che... Beh, sicuramente è un edificio enorme in cui ci si può perdere in un batter d'occhio. Però sicuramente appena uno ci entra, appena passa lo shock iniziale di questo monumento enorme, sicuramente è un posto molto più familiare di quanto si dica e si pensi prima di entrarci. Roberto Kocsáncsics, come ci sei dentro questo Parlamento adesso? Da politico, da capo scout, da uomo, da una sintesi forse di tutto questo? Ma sì, ma credo come tutti quanti, con la voglia di confrontarsi, di guardare, di imparare tante cose. Insomma, ciascuno di noi credo ha fatto una strada interessante per arrivare qua, adesso il bello è di incrociarla con gli altri, quindi mi pongo con molto interesse e grande curiosità rispetto alle cose che ho da sentire e da imparare. Oggi dalle 16 alle 17 parteciperà a questo incontro Fede e Credo, un puzzle di umanità, si metterà la religione, le religioni al centro. E questa mi pare una delle grandi sfide che noi abbiamo per costruire un'Europa migliore, una società migliore, quella di imparare a convivere senza rinunciare a quelle che sono le nostre convinzioni, i nostri credo, le nostre anche convinzioni religiose. Dobbiamo far sì che questo diventi non un ostacolo, ma un'opportunità per confrontarci, unirci agli altri. Vediamo, credo, questo come un ostacolo difficile in questo momento, perché purtroppo prevalgono in tanti luoghi delle teorie dove le differenze sono degli ostacoli al dialogo. Io penso che sia invece il contrario, che la differenza sia il presupposto del dialogo. Gordon, prendo te come portavoce di questa domanda. A te la parola Europa cosa trasmette? Cioè, Europa uguale... Ah no, è lui, rispondi tu. Ah no, ho sbagliato il nome? Giorgio, scusa, scusami. Giorgio, c'è la parola Europa, di prima acchito pensi a unione o pensi a divisione? Ma di prima acchito io penserei più ad un'unione, anche perché secondo me l'Europa rappresenta appunto, essendo la culla poi della democrazia, che poi si è sparsa per tutto il mondo, la culla di quei diritti fondamentali, delle garanzie che dovrebbero essere assicurate in questo momento, l'Europa... dalla definizione iniziale di unione, più che altro la vedrei come divisione. Ci stiamo un attimo dividendo, ci stiamo perdendo un po' di vista e personalmente, essendo venuto qui all'AI, questa sensazione un po' è sparita. Vedendo tutti i ragazzi, comunque anche delle diverse nazionalità, come ci confrontavamo, parlavamo comunque del più del meno di argomenti anche collegati alla politica, oppure argomenti diversi, e mi è piaciuto molto come siamo riusciti tutti quanti proprio a capirci, nonostante anche le divisioni, comunque le differenze linguistiche. Ecco. Ma c'è proprio una visione diversa tra le generazioni? Cioè quella che l'Europa per voi, che avete 20 anni, è diversa dalla mia concezione, che ne ho 40, forse di Roberto, che ha qualche anno in più, dei vostri genitori, che comunque sono più grandicelli ancora. Cioè, c'è proprio una questione generazionale legata al concetto di Europa? Beh, noi siamo comunque quella che viene chiamata la generazione Erasmus, quindi quella che ha visto la nascita dell'Europa, di quella che dovrebbe essere l'Europa dei popoli. Ecco, e venendo qua e conoscendo altri giovani, sono 7500, da altri posti, altre nazioni europee, e vedere che comunque abbiamo più o meno gli stessi desideri, le stesse visioni su tanti temi, ecco, questo penso sia la miglior foto dell'Europa che dovrebbe essere, quest'unione di gente che fino a ieri non si conosceva, ma che attraverso un evento come questo può confrontarsi e vedere la nascita di un'unione che speriamo possa portare tanto. La stessa domanda la faccio sia a Laura che a Roberto, è la generazione Erasmus quella che salverà questa Europa? Sì, forse sì, o comunque sono i giovani sicuramente. E mi sembra i cittadini, cioè veramente ci sono delle posizioni, come diceva forse Giorgio, mi sembra che dal basso abbiamo delle idee molto più innovative, forse più voglia di confrontarci, talvolta quello che vediamo un po' a livello politico ci lascia un po' l'amaro in bocca, perché ci sembra che non ci sia un rispecchiamento forse esatto di quello che si vede ad altri livelli, e sicuramente sì, eventi come questo fanno pensare che sicuramente siano e possano essere i giovani. Ora la mia domanda è anche un po' forse... può essere un po' provocante, ma quali giovani? Perché comunque non tutti possono forse essere qui, non tutti hanno lo stesso accesso all'Europa, quindi magari sicuramente più diffusione di possibilità in tanti spazi dove magari tanti giovani non possono accedere o non sanno neanche che l'Europa permette delle cose. E sicuramente sì, no, i giovani. Roberto? Io credo che sia davvero un'occasione per superare anche molti pregiudizi, no? Perché quando ci si incontra personalmente, a volte anche delle paure poi svaniscono dietro un sorriso, dietro uno sguardo, così, una mano tesa che vuole darti, dai, entra anche tu nel gruppo e ti metti insieme agli altri, capisci che non sono dei nemici, ma sono persone che come te cercano di mettersi in gioco. E questo io credo che valga per tutte le generazioni, visto che mi hai gentilmente messo giustamente anche nella categoria dei senior, credo che valga valga anche per quelli della mia generazione. Abbiamo, credo, tantissimo da scambiarci anche tra diverse età, abbiamo da imparare e da ascoltarci maggiormente. Forse il Parlamento dovrebbe essere anche un ascoltamento, cioè non solo venire qui a raccontare ma anche ad ascoltare gli altri, credo che ci sia molto da fare. Gordon, so che c'è grande attesa per la festa di questa sera. Sì. Cosa prevede il programma? Abbiamo incontrato degli amici croati, tedeschi e ci siamo dati tutti appuntamento stasera per salutarci e sperare di rivederci ancora festanti per questa Europa, ecco. Hai già indossato il vestito bello della festa? L'abbiamo tenuto per stasera. Bravo. Adesso ci fermiamo, la pubblicità, poi rientriamo in diretta qui con AI 2016 dal Parlamento Europeo di Strasburgo, ancora nuovi ospiti che ci aspettano. Grazie. Cuore e Denari presenta un appuntamento speciale dedicato alla salute e al benessere del cuore. Ogni mese un tema abbinato ad un colore. Quello di maggio è il rosso, come la passione, come l'amore. E a proposito d'amore, le pillole dell'amore che accendono la passione possono fare male al cuore? Bella domanda. Tenetevi pronti allora, perché il 30 maggio ne saprete di tutti i colori. Vi aspettiamo con i colori del cuore per parlare di cuore e dintorni. Cuore e Denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Dal lunedì al venerdì alle 10.30 su Radio 24. L'altra Europa. Eccoci qua ancora in diretta dal Parlamento Europeo di Strasburgo, puntata speciale dell'Altra Europa in occasione di AI 2016. Insieme possiamo fare la differenza, questo è lo slogan che stanno vivendo, mettendo in pratica, slogan con cui si stanno confrontando oltre 7.500 giovani europei, con noi alcuni rappresentanti. Altro giro di saluti, Gianluca e Desiree da Torino, ciao. Bene. E Pietro invece da Lecco, in rappresentanza di un numeroso gruppo lombardo. Francesco invece, anche lui un gruppo lucchese, tutti di Lucca. Francesco Lucchesi, rappresentante di un gruppo lucchese, e Dario Mazzella che invece è uno dei relatori che conosceremo fra pochissimo. Ciao Dario. Partiamo da Torino, perché voi siete qui, siete giovanissimi, fate parte di un'associazione torinese, ma qui avete proposto un laboratorio, giusto Gianluca? Esattamente, abbiamo proposto un workshop che si chiamava Nelle scarpe dell'altro, nei panni dell'altro, e che utilizzava la metodologia del teatro dell'oppresso per spiegare come avvengono atti di bullismo e di cyberbullismo tra i ragazzi adolescenti. Che il teatro dell'oppresso funziona così: tu in questo momento potresti anche alzarti, strapparti la cuffia e lei guarda le nostre reazioni, tu in verità stai recitando, è un po' questo, no? Esattamente, e c'è la possibilità di interagire all'interno del teatro proponendo delle soluzioni e poi proprio mettendosi in gioco dopo aver proposto questa soluzione, cercando di spiegare e far vedere come l'altra persona si sarebbe comportata al posto della vittima. E il bullismo è un tema europeo? Ci avete notato differenze nell'approccio alla... Le differenze non sono molto... sono più o meno simili. Ovviamente ci sono sempre casi peggiori, casi minori. Ovviamente in Italia si sta sviluppando sia il bullismo che il cyberbullismo, quindi cerchiamo di andare nelle scuole proprio per informare i giovani, per informare i ragazzi a prevenire oppure anche capire determinate situazioni. Voi tra l'altro state facendo servizio civile, mi dicevate, nella vita, quindi un'esperienza importante anche di una sorta di anno sabbatico in cui ci si mette in gioco e ci si mette al servizio della collettività. Perché avete scelto di essere qua? Allora, diciamo che l'idea principale era soprattutto per mostrare ai ragazzi che c'è la possibilità di confrontarsi, perché ci sono comunque tematiche come il confronto proprio, la guerra, la violenza, il bullismo, tutte tematiche che riguardano molto di più l'ambito sociale di cui ci occupiamo noi, si occupa la nostra organizzazione, e per mostrare anche ai ragazzi che c'è la possibilità di confrontarsi, di parlare, di conoscere un mondo nuovo, soprattutto perché facendo il workshop siamo riusciti a ottenere un finanziamento che ha permesso ai ragazzi di venire qua senza pagare dei soldi, quindi proprio far capire che ci sono delle possibilità per entrare in questi luoghi, per arrivare qua, per poter conoscere queste realtà e per poter anche agire all'interno di queste realtà. Dario Mazzella, Project Manager Meta Group, il discorso dei soldi è un po' al centro del tuo workshop, come trovare soldi, come finanziarsi. Sì. Come... Beh, l'idea alla base è che oggi si parla tanto di startup, è una moda, alle volte è una via di fuga per i giovani. Quello che io dico sempre è che ci vuole tanta passione, tanto coraggio, coraggio, tanto sacrificio e poi bisogna saper trovare anche i soldi e non è facile. Che, insomma, spesso l'Europa è anche abbinata al concetto, per fortuna, di possibilità, di opportunità. Certo. Possibilità e opportunità però che bisogna saper trovare, saper cercare. È complicato, da dove conviene partire? In realtà non è tanto complicato, bisogna solo sapere da dove partire, bisogna partire dai propri sforzi. La gente pensa molte volte che trovare i soldi è una scorciatoia per lanciare la propria impresa, invece non lo è. Se riesci a lanciare con successo qualcosa che funziona, saranno i soldi a venire a cercare te. I have a good idea, give me the money, ho una buona idea, dammi i soldi, questo è il titolo del tuo workshop, quindi fa più l'idea o fanno più i soldi però? Fa più l'idea. Assolutamente. Insomma, sì. Questo mi sembra che sia assolutamente incentivante, come ci fidiamo. Sì. Lei ha già fatto il workshop? No, oggi darai proprio strumenti pratici? Sì. L'idea alla base è che se una persona riesce ad avere una soluzione per un problema, è già a cavallo, dal mio punto di vista. Leggevo il sottotitolo: i tre principali finanziatori per il business sono la famiglia, gli amici o i pazzi? Family, friends and fools. A chi è meglio rivolgersi? Ai pazzi? Probabilmente sì. Ai pazzi, insomma, bisogna essere, cioè, la sana follia che poi accompagna a realizzare i propri sogni. Pietro, consulta di Lecco, sì. E non solo, siete qui appunto, come ho detto, un numeroso gruppo... Dalla Lombardia, dalle Marche, dall'Umbria. Ah sì, tutta Italia, siete sì. di fatto le consulte? Vi sì, siete sì, siamo insieme? Il coordinamento regionale della Lombardia insieme ad altre province come Perugia e anche alcune, la provincia del Molise, e abbiamo deciso di partecipare a questo progetto con l'AIDE, che sarebbe l'associazione che si occupa di portare appunto i ragazzi alle consulte all'interno del Parlamento europeo per farci conoscere quelle che sono le strutture e soprattutto... quelle istituzioni che tanto vengono magari criticate negli ultimi periodi in Italia. Ieri abbiamo assistito a un incontro sul rapimento e il riscatto, abbiamo visto l'anno scorso cosa è successo in Italia con questa storia di queste due ragazze, abbiamo capito quali sono le difficoltà per gli stati di cercare, no, delle nuove trattative, quindi ci hanno fatto capire che non è sempre facile, a volte non viene sui giornali in luce, non viene messo in luce sui giornali quello che succede realmente, proprio perché è sensibile la questione. Pietro, visto che voi trattate argomenti scolastici, avete comunque la scuola, le tematiche giovanili al centro, l'Europa interessa? È una bella domanda. Adesso, come ho detto, l'Europa è molto criticata, quindi è un po' il capro espiatorio sia degli adulti che come per i giovani. Quando le cose non vanno bene, o si dà colpa ai politici o si dà colpa a chi sta sopra, in questo caso all'Europa. A mio avviso ci sono studenti, e questo lo dimostra, che sono molto interessati all'Europa e soprattutto sono impegnati a provare nel loro piccolo, ovviamente, a costruire un'Europa migliore. E non si tratta di dire usciamo dall'Europa e costruiamo un'altra Europa al di fuori, come dice qualcuno, si tratta invece di cercare il meglio dell'Europa all'interno di queste istituzioni, cercando di abbandonare un po' quelle teorie che vedono più il soldo più importante della persona e riportare la persona al centro di ogni progetto. Eri dentro ad ascoltare Samantha Cristoforetti insieme ai tuoi colleghi, sì. C'è una frase, c'è una parola che ti ha colpito particolarmente? Sì, all'inizio, nel senso, mi è piaciuto quando ha fatto capire quanto sia stata per lei una soddisfazione riuscire a realizzare quello che era un po' il suo sogno. Cioè, alla fine ci chiedevamo, se da bambina si chiedeva, voleva diventare un astronauta, e alla fine riuscire ad arrivare con tutto l'impegno, ovviamente, le difficoltà che ha avuto a realizzare un sogno così grande, è anche una questione di soddisfazione e di orgoglio per l'Italia intera. Era pettinato o avevi i capelli come quando eri no, in orbita? No, era pettinato. Andiamo ad ascoltare quello che ci ha detto, l'abbiamo intervistato un paio di giorni fa, proprio in preparazione all'incontro di oggi, che è in simultanea con la diretta, abbiamo fatto una brevissima chiacchierata e abbiamo il piacere di averla qua con noi virtualmente. Samantha Cristoforetti. Beh, per me era particolarmente emozionante perché insomma l'Europa è la mia casa, e poi l'Europa comunque è un colpo d'occhio particolare perché insomma in Europa siamo tanti, la densità di popolazione è elevata, quindi soprattutto di notte ci sono molte luci, è molto facile distinguere i vari paesi, le città, insomma città come Londra, Parigi, Milano, Madrid, sono proprio questi fari di luce molto molto distinguibili e c'è tanto in Europa, in uno spazio piccolo perché si attraversa veramente in 10 minuti dalla stazione spaziale, però c'è talmente tanta cultura, lingue, popoli, storia, c'è proprio una densità di vissuto che quando ci pensi dalla stazione spaziale in questi 10 minuti in cui passi sopra è tanto tanto piccola, ma veramente un posto pieno di vissuto. Ma quindi c'è comunque il tempo e lo spazio anche per emozionarsi mentre si è lì in orbita? Beh, certo, sicuramente, soprattutto insomma in questi momenti dove ci abbiamo la possibilità di goderci la vista, e questa sensazione di lontananza e vicinanza insieme, perché alla fine siamo soltanto a 400 chilometri dalla terra, voglio dire, la distanza, non lo so, tra Roma e Milano più o meno, quindi in realtà siamo vicinissimi, ma quello che crea la distanza è che poi invece siamo velocissimi e siamo in orbita, quindi un posto vicino ma allo stesso tempo lontano e inaccessibile. Samantha, cosa racconterai ai ragazzi a Strasburgo? Sono ragazzi, insomma, sono adolescenti e sono prossimi anche a delle scelte importanti di formazione personale, di studio o di lavoro. Qual è il messaggio che porterai a loro? Ma io sono abbastanza convinta, beh, poi là insomma in tempo reale sicuramente dei messaggi verranno fuori, però sono abbastanza convinta che poi uno non debba mai entrare in questi eventi con dei messaggi a priori. Credo che quello che io ho il dovere e il piacere di fare sia portare una testimonianza di quello che a me l'Europa ha permesso di fare. Poi ogni giovane con la sua intelligenza, la sua sensibilità, poi interpreta e recepisce i messaggi che sono giusti e importanti in quel momento per lui e per lei. Quindi più che un pontificare, dare messaggi, vedo il mio intervento come una testimonianza o il racconto di una storia. Insomma, di questa Europa che è ricchissima anche di punti critici, ma soprattutto di opportunità e possibilità, soprattutto per quel target lì, anche noi insomma lo testimoniamo settimanalmente con il nostro programma. Samantha, invece qualche giorno fa ti ho incrociato da lontano al Salone del Libro di Torino, dove insomma eri veramente circondata da decine e decine di persone, di famiglie, tantissimi bambini, dove presentavi il libro Nello spazio con Samantha, scritto insieme a Stefano Sandrelli per Feltrinelli Kids. È un po' alimentare il sogno dei bambini di potercela fare, di poter osare. Sì, vorrei anche menzionare un libro illustrato, quindi vorrei anche menzionare l'illustratore, certo, Alessandro Baronciani, che è stato bravissimo a dare vita a questo racconto con le sue immagini. Sì, è un libro insomma che spero piacerà, che chiaramente è il racconto della missione futura, impostato come un dialogo con due bambini molto curiosi, Anna e Luca, che entrano in dialogo con me, in questo caso, che sono nello spazio, quindi è un porsi domande da parte loro, un dare risposte da parte mia, che però in qualche modo poi aprono anche a nuove domande, quindi insomma spero speriamo insieme a Stefano e Alessandro che sia una lettura piacevole ma anche stimolante, che stimoli un po' la curiosità, la voglia di scoprire cose nuove, la voglia anche di approfondire, di capire le cose al di là dell'emozione immediata, dell'impatto immediato che magari non lo so possono avere le foto dalla stazione spaziale. Ecco, questo è un tempo diverso, perché un libro richiede naturalmente del tempo per essere letto, anche un pochino forse un pochino più di impegno, che però poi dà la soddisfazione dell'essersi veramente appropriato delle cose, di averle capite un pochino meglio. Eri una bambina curiosa tu? Sì, ero una bambina curiosa e adesso sono una donna adulta curiosa. Ed eri un adolescente rompiscatole, invece così fanno tutte le fasce d'età proprio. Sì, ero un adolescente molto rompiscatole. Ero abbastanza indisciplinata, devo dire, all'età dell'adolescente, ero un po' insofferente della disciplina, delle regole, insomma, come capita a molti adolescenti, insomma, poi crescendo si impara anche ad apprezzare la necessità di regole e disciplina. Grazie davvero Samantha, bocca al lupo e buon incontro a Strasburgo. Grazie Federico, un saluto a tutti, ciao. Per fare la differenza bisogna essere rompiscatole, di questa è una mia grande certezza, quindi insomma sono contento che Samantha l'abbia sottolineato. Gianluca, Desiree e Pietro, una domanda con risposta secca, cosa vi portate a casa da questa esperienza? Gianluca. Ma di sicuro il confronto e la possibilità di aver partecipato a questo evento dove c'erano persone che arrivavano da tutte le nazioni, e quindi abbiamo visto l'opinione diversa riguardo a vari argomenti come le migrazioni piuttosto che la violenza. Desiree? Come abbiamo detto anche prima, il fatto di venire nel Parlamento europeo, cioè una delle occasioni più uniche che rare, quindi anche entrare in questo posto, incontrare altra gente dell'Europa, di altre parti del mondo, è un'esperienza proprio che ti forma. Pietro? La consapevolezza di avere nuovi valori e di riuscire a portarli in una nuova Europa, l'Europa del futuro. Grazie, in bocca al lupo anche a te Dario per il tuo incontro di oggi, spero che non ti chiedano troppi prestiti, però insomma trovare i soldi, questo è il cuore dell'incontro del pomeriggio. Ci fermiamo, il traffico, poi ancora qua con l'altra Europa. L'altra Europa. Eccoci qua ancora in diretta, ultimo giro di voci, sono tante storie diverse, tanti protagonisti. Francesco, prima non ti ho fatto parlare, adesso eccoci qua. E mi stavi dicendo durante il traffico che tu fai parte anche del Parlamento Europeo Giovani. Europeo Giovani, e che cos'è? In pratica è una simulazione del Parlamento Europeo soltanto per ragazzi dai 17 ai 23 ai 24 anni. È un obiettivo secondo me culturale fondamentale per l'Europa, perché un'Europa che si sta dividendo, ci dimostra la Brexit, ci dimostrano vari moti insomma nazionalisti che stanno sempre crescendo in tanti paesi, anche l'Italia, e secondo me quindi promuove una coscienza europea. Noi cosa facciamo? Andiamo lì, andiamo in questi eventi che si svolgono in tutta Europa e anche non solo Europa. Io ho partecipato ad esempio a un forum in Armenia e andiamo a simulare il lavoro del Parlamento Europeo, quindi ci dividiamo in commissioni e poi ogni commissione propone una risoluzione. Questa risoluzione viene poi discussa in assemblea generale e poi verrà votata, approvata oppure no. E insomma, secondo me è un ottimo modo per sensibilizzare i giovani anche alla politica e alle questioni europee. E qui stai portando questa esperienza, o comunque stai respirando queste dinamiche in maniera un po' più informale forse? Sì, in un certo senso sì, anche se il Parlamento Europeo Giovani essenzialmente è un evento molto informale, però questo è ancora diciamo più informale, diciamo dà l'opportunità di conoscere ancora più persone, ancora più ragazzi e provare a fare delle differenze, a fare della diversità una ricchezza e non un problema come sta facendo diciamo vari movimenti nazionalisti in Europa. Siamo emozionatissimi, questo è quello che mi hanno detto i nostri prossimi due ospiti, tra l'altro anche più giovani rispetto alle voci che abbiamo sentito fino ad ora. Ciao e benvenuti. Michele. Clara da Marsala, giusto? L'istituto sì, qual è? Commercial. Che siete, quanti siete? Siete tantissimi. 20. Siamo 22 con anche compresi professori. Un professore vulcanico che ho conosciuto prima della diretta, un vero paladino dell'Europa. E con che spirito siete arrivati da Marsala a qua? Cioè, con quale speranza? Con tanta euforia, tanta voglia di confrontarci con i 9.000 studenti che sono qua oggi. Insomma, il fatto di stare qua è un'emozione unica, penso un'esperienza indimenticabile, perché cioè, molto... Quanto è lontana l'Europa da Marsala? Cioè, nel senso, è una cosa che sentite vostra o comunque c'è anche una distanza fisica che ve la fa sembrare ancora c'è più lontana? C'è anche una distanza fisica che appunto la allontana, perché... tipo la sentiamo molto lontana. Però insomma essere qua è proprio testimoniare invece e il vostro professore, i vostri professori, credo con le tante attività proprio che insomma l'Europa è presente anche sul territorio. Conoscere una realtà diversa, cioè vederla dal nostro paese è tutta un'altra cosa rispetto a oggi essere qua. Siete emozionati anche dell'essere qua oltre che dell'essere in radio, mi sembra. Sì, abbastanza. Due attività invece parallele, alla mia destra e alla mia sinistra, partiamo con Irene. Ciao Irene. Ciao. Cosa state combinando voi qui ad AI 2016? Chi siete? Allora, stiamo coprendo attraverso EYMD, che è un evento che si chiama European Youth Media Days, è un evento che avviene in concomitanza con l'AI e siamo giornalisti e quindi riportiamo le notizie e cerchiamo di ricoprire il più possibile tutti i temi di AI. Io personalmente ho partecipato a un workshop sulla sostenibilità, ma c'è veramente di tutto. È facile da raccontare l'Europa? Per nulla, però ci proviamo, facciamo del nostro meglio. Ma perché sono tematiche difficili o perché c'è un'antipatia di fondo nei confronti di chi deve ricevere le informazioni, che quindi rende ancora più complicato il comunicarlo? Ma sicuramente l'Europa è un'entità complessa in tutte le sue declinazioni, diciamo. E raccontarla non è facile, però io vedo tanta apertura, anche tanto entusiasmo. E anche con tutti questi internazionali, tutti questi giornalisti che vengono da ogni parte, da ogni paese, è veramente molto emozionante, molto positiva come collaborazione. Buon lavoro quindi a te e a tutto il tuo team, e sempre di media, sempre di informazione alla mia sinistra con una radio che ha proprio l'Europa al centro. Ciao e ben ritrovato. Ciao. Che non mi ricordo il tuo nome. Andrea. Scusa. Andrea, eccoti qui. Eurofonica, giusto? Sì, è più importante il nome del programma che facciamo con una redazione di 13 ragazzi da tutta Italia, da Trento fino a Catania. Andiamo in onda su tutte le radio del circuito Raduni. Tradotto, ogni università ha una radio e quindi tutti gli studenti possono sentire ogni settimana tutto quello che vogliamo scoprire sull'Unione Europea. E noi andiamo in onda ogni mese proprio qui dal Vox Box del Parlamento Europeo di Strasburgo e cerchiamo con una redazione abbastanza composita di parlare dei temi più importanti. Abbiamo fatto una prima parte, i primi sei mesi abbiamo iniziato a settembre, una parte antologica. Spieghiamo quali sono le cose più importanti, dalla politica estera all'euro, alle tematiche come Brexit e migranti, però da un punto di vista che tenga in considerazione il linguaggio. L'Europa purtroppo parla un linguaggio burocratico e vecchio, noi cerchiamo di usare invece un linguaggio semplice ma non povero e ci stiamo riuscendo. E qual è il trucco? Il trucco è mettersi dal punto di vista dell'ascoltatore. I ragazzi, tutte le opinioni pubbliche di ogni nazione non mettono in discussione il proprio Stato. Nessuno vuole tornare al Regno delle Due Sicilie. Io sono di Rimini, non voglio tornare allo Stato della Chiesa. Quindi quando critico l'Italia lo faccio magari per criticare un'azione del governo oppure una cosa che non mi va bene, ma non critico l'insieme. Così come l'Europa. Noi non siamo... C'è sempre questa visione un pochino infantile del dire chi è a favore dell'Unione Europea e a favore in toto. Invece noi vogliamo guardare quelle che sono anche le criticità. Però lo facciamo cercando di raccontare prima di tutto le storie e le storie partono dal pubblico. Questa è dietro di noi la tua parte. Sono la tua tutti redazione. Ragazzi, Trento, Catania, Roma, Pisa, Perugia. Insomma, quindi un ottimo staff, grazie davvero anche a voi, in bocca al lupo. Francesco, chiuderei con te la puntata. Che messaggio vorresti dare a chi non è qua oggi? Io vorrei dire che tutti davvero, prendendo lo slogan di questo evento, possiamo cambiare effettivamente se iniziamo a impegnarci sulla politica europea, iniziamo a informarci, iniziamo a portare le nostre battaglie ideologiche o anche politiche o più pragmatiche, davvero possiamo cambiare. Vi faccio un esempio, noi a scuola stiamo organizzando diversi club, chiamiamoli così, uno si chiama Piccolo Club del Coccodrillo, in cui cerchiamo di riproporre un po' l'ideologia, l'idea di Altiero Spinelli, quello di creare una confederazione europea, ci crediamo davvero tanto, crediamo che in un mondo dove stanno emergendo giganti economici a livello di PIL come la Cina, il Brasile, l'India, la Russia, non possiamo restare Italia, Germania da soli, dobbiamo unirci perché unione è forza e serve cooperazione e non competizione. Quindi l'invito che faccio a tutti è quello di mettersi in gioco e agire veramente con l'ottimismo della volontà e il pessimismo della ragione, diciamo così. E parliamo quindi del coccodrillo, il piccolo coccodrillo come simbolo, sì, di questa puntata. Grazie davvero a tutti per essere stati in nostra compagnia, grande Marsala, un applauso per salutare tutti quelli che hanno partecipato, un grazie a Miriam Lucchetti che come ha scritto la puntata, un grazie ai tecnici del Parlamento Europeo, un grazie anche all'ufficio italiano del Parlamento Europeo per il supporto che ci ha dato, Claudia Schiattone in assistenza da Milano insieme a Valeria Bernardi. Questa è tutta la squadra di Radio 24, questa è AI 2016. Ciao!